Terzo anello, ad alta voce. Il Conte di Montecristo, di Alexandre Dumas. Erano trascorsi circa 4 anni. Alla fine del secondo, Dantès aveva smesso di contare i giorni ed era ricaduto nell'ignoranza del tempo dalla quale una volta l'aveva liberato l'ispettore. Si era detto: «Voglio morire», e aveva scelto il suo genere di morte. Lo aveva considerato bene e, per paura di ritornare sulla sua decisione, aveva fatto giuramento a se stesso di morire così. «Quando mi verrà portato il pasto della mattina e il pasto della sera», aveva pensato, «getterò il cibo dalla finestra e fingerò di averlo mangiato». Fece come si era ripromesso. 2 volte al giorno, per la piccola grata che gli lasciava intravedere solo il cielo, egli gettava il suo cibo, da principio con allegria, poi con riflessione, quindi con dispiacere. Ebbe bisogno di ricordarsi il giuramento per avere la forza di continuare il suo terribile disegno. Consumò dunque, rigoroso e implacabile, il poco d'esistenza che gli restava, e venne il giorno che non ebbe più la forza di alzarsi per gettare dalla finestrella la cena che gli avevano portato. Il giorno seguente non ci vedeva più, udiva appena. Il carceriere sospettò una grave malattia. Edmond sperava in una morte prossima. D'un tratto, la sera, verso le 9, intese un rumore sordo alla parete del muro contro la quale era disteso. Benché indebolito, il cervello del giovane fu colpito da quella vaga idea costantemente fissa nella mente del prigioniero: la libertà. Quel rumore giungeva proprio nel momento in cui ogni altro rumore cessava per lui, e gli sembrò che Iddio si mostrasse alla fine pietoso delle sue sofferenze e gli inviasse quel rumore per avvertirlo di fermarsi sull'orlo della tomba dove già vacillava il suo piede. Chi poteva sapere se uno dei suoi amici, uno di quegli esseri cari ai quali aveva pensato così spesso, non si occupasse di lui in quel momento e non cercasse di accorciare la distanza che li separava? Ma no, senza dubbio si sbagliava. Era solo un sogno che fluttuava alla porta della morte. Però sentiva sempre quel rumore. Durò circa 3 ore. Poi egli intese una specie di crollo, dopo il quale il rumore cessò. Qualche ora dopo riprese, più forte e più vicino. Subito Edmond si alzò, andò in un angolo della prigione, staccò una pietra consumata dall'umidità e ritornò a battere il muro nel punto in cui il rimbombo era più avvertibile. Batté 3 colpi. Dopo il primo, il rumore cessò come per incanto. Edmond si mise in ascolto con estrema attenzione. Passò un'ora, ne passarono 2, e nessun nuovo rumore si fece sentire. Edmond aveva fatto nascere dall'altra parte del muro un assoluto silenzio. Pieno di speranza, mangiò qualche boccone di pane, beve qualche sorso d'acqua e, grazie alla forte costituzione di cui la natura lo aveva dotato, ritrovò ben presto l'energia. La giornata passò. Il silenzio durava ancora. Venne la notte senza che il rumore ricominciasse. «È un prigioniero!» si disse Edmond con gioia indicibile. Da quel momento la sua testa si infiammò, gli tornò la forza di vivere e di lottare. La notte passò senza che il minimo rumore si facesse sentire. Edmond non chiuse occhio. Ritornò il giorno. Il carceriere rientrò portando il cibo. Edmond aveva già divorato quello del giorno precedente, divorò anche il nuovo, attendendo senza sosta quel rumore che non tornava più, temendo che fosse cessato per sempre. 3 giorni passarono, 72 ore mortali contate minuto per minuto. Finalmente, una sera, dopo che il carceriere ebbe fatta la sua ultima visita e dopo che per la 100ª volta Dantès ebbe attaccato l'orecchio al muro, gli sembrò che una scossa impercettibile si ripercuotesse sordamente nella sua testa, messa a contatto con le pietre silenziose. Dantes indietreggiò per riordinare le idee. Fece qualche giro nella cella e rimise l'orecchio nello stesso punto. Non c'era dubbio. Dall'altra parte si lavorava. Fatto ardito da questa scoperta, Edmond risolse di venire in aiuto all'infaticabile lavoratore. Cominciò con lo spostare il letto, dietro il quale gli sembrava che si compisse l'opera di liberazione, e cercò con gli occhi un oggetto con cui intaccare il muro, far cadere il cemento umido e spostare una pietra. Niente si presentava al suo sguardo. Non aveva né coltello né strumenti taglienti. Gli rimaneva una sola risorsa: rompere la brocca e con uno dei cocci taglienti mettersi al lavoro. Lasciò cadere la brocca sul pavimento e la brocca andò in pezzi. Dantes ne scelse due o tre aguzzi, li nascose nel pagliericcio e lasciò gli altri sparsi per terra. La rottura di una brocca era una cosa troppo naturale perché potesse destare sospetti. Edmond aveva vegliato tutta la notte per lavorare. Ma nell'oscurità il lavoro procedeva male, poiché bisognava lavorare a tentoni, ed egli si accorse ben presto di smussare l'informe strumento contro una materia più dura. Allora rimise a posto il letto e aspettò il giorno. Con la speranza gli era tornata la pazienza. Tutta la notte rimase in ascolto e sentì che lo sconosciuto minatore continuava la sua opera sotterranea. Venne il giorno e entrò il carceriere. Dantes Gli disse che il giorno prima nel bere gli era sfuggita di mano la brocca che cadendo si era rotta. Il carceriere brontolando andò a cercare una brocca nuova, senza neppure darsi la pena di portare via i cocci della vecchia. Ritornò dopo un istante, raccomandò al prigioniero maggiore attenzione e uscì. Dantès ascoltò con gioia indicibile lo stridere della serratura che in precedenza, ogni volta che si chiudeva, gli stringeva il cuore. Sentì il rumore dei passi allontanarsi. Poi, quando quel rumore finì, balzò verso la cuccetta, la spostò e alla debole luce del giorno che penetrava nella cella poté rendersi conto dei tentativi inutili fatti nella notte precedente contro il corpo della pietra, invece di lavorare sul cemento che la circondava. In 3 giorni riuscì, con inaudite precauzioni, a togliere tutto il cemento e a mettere a nudo la pietra. Il muro era formato da pietre in mezzo alle quali, per aumentare la solidità, era posta di tanto in tanto una pietra più dura. Era una di queste pietre, scoperta in tutto il suo contorno, che ora si trattava di togliere dal suo alveolo. Dantès provò con le unghie, ma erano insufficienti. I cocci della brocca, introdotti nelle connessure, si rompevano quando egli voleva servirsene come leva. Dopo un'ora di inutili tentativi, si rialzò con il sudore dell'angoscia sulla fronte. Allora gli venne in mente un'idea. Rimase in piedi, sorridendo. La sua fronte umida per il sudore si asciugò. Il carceriere portava tutti i giorni la minestra di Dantès in una casseruola di latta. Questa casseruola aveva un manico di ferro. Era questo manico che Dantès voleva avere e che avrebbe pagato, se gli fosse stato chiesto, 10 anni di vita. Il carceriere di solito versava il contenuto di questa casseruola nel piatto di Dantès. Dopo aver mangiato la minestra con un cucchiaio di legno, Dantès lavava il piatto che veniva usato ogni giorno. La sera Dantès posò il piatto per terra, a metà strada fra la porta e il tavolo. Il carceriere, entrando, mise il piede sul piatto e lo ruppe in 1000 pezzi. Il carceriere si guardò intorno per vedere dove avrebbe potuto versare la minestra, e il servizio da tavola di Dantès si limitava a quel solo piatto. Non c'era scelta. «Lasciate la casseruola», suggerì Dantès. «La riprenderete domani quando mi porterete la colazione». Questo consiglio si accordava con la pigrizia del carceriere, che in questo modo non avrebbe avuto bisogno di risalire, ridiscendere e risalire ancora. Lasciò la casseruola. Dantes continuò a lavorare tutta la notte, ma dopo 2 o 3 ore di lavoro incontrò un ostacolo. Il ferro non intaccava più e scivolava su una superficie piana. Dantes toccò l'ostacolo con la mano e si accorse di aver raggiunto una trave che attraversava, o piuttosto sbarrava del tutto, il buco da lui iniziato. Ora era necessario scavare dal basso verso l'alto. «Oh mio Dio!» esclamò. «Avevo tanto pregato che speravo mi avresti ascoltato! Mio Dio, abbiate pietà di me, non mi lasciate morire nella disperazione!» «Chi parla di Dio e di disperazione nello stesso tempo?» esclamò una voce che sembrava venire da sottoterra e che, attenuata dallo spessore, arrivava al giovane con accento sepolcrale. Edmond sentì drizzarsi i capelli in testa e indietreggiò sulle ginocchia. Mormorò: «Finalmente sento parlare un uomo!» Erano già 4 o 5 anni che sentiva parlare solo il suo carceriere, e un prigioniero non considera un uomo il suo carceriere. È una porta viva aggiunta alla porta di quercia. «In nome del cielo!» gridò Dantes. «Voi che avete parlato, continuate a parlare, sebbene la vostra voce mi abbia spaventato. Chi siete? Chi siete voi, piuttosto?» domandò la voce. «Un disgraziato prigioniero!» rispose Dantes, che non aveva alcuna difficoltà a farsi conoscere. «Di quale paese? Francese! Il vostro nome? Edmond Dantes! La vostra professione? Marinaio! Da quanto tempo siete qui? Dal 28 febbraio 1815! Il vostro crimine? Sono innocente! Ma di che cosa siete accusato? Di aver cospirato per il ritorno dell'imperatore? Come? Per il ritorno dell'imperatore, dunque l'imperatore non è più sul trono? Abdicò a Fontainebleau nel 1814 e fu relegato all'isola d'Elba. Ma voi che ignorate tutto questo, da quanto tempo siete qui? Dal 1811. Dantes rabbrividì. Quest'uomo aveva 4 anni di prigionia più di lui. Sta bene, non scavate più, disse la voce, parlando in fretta. Ditemi soltanto a quale altezza si trova lo scavo che avete fatto. Rasente terra. Da cosa è nascosto? Dal mio letto. Dov'è la vostra cella? Su un corridoio. E il corridoio porta a un cortile. Ahimè, mormorò la voce. Oh mio Dio, cosa avete? Gridò Dantes. C'è che ho sbagliato, che l'imperfezione dei miei disegni mi ha ingannato, che la mancanza di un compasso mi ha perduto, che una linea sbagliata sul mio piano ha portato a una differenza di 15 piedi, e che ho preso il muro che scavate voi per quello della cittadella. Ma allora sareste uscito sul mare? Era ciò che volevo. E se foste riuscito? Mi sarei gettato a nuoto. Sarei approdato a una delle isole che circondano il castello d'If, sia l'isola di Dom, sia l'isola di Tiboulin, o ancora la spiaggia. E allora sarei stato salvo. E avresti potuto nuotare fin là. Dio me ne avrebbe dato la forza. Ma ora tutto è perduto. Tutto? Sì. Richiudete il vostro buco con precauzione. Non lavorate più. Non vi occupate di niente e aspettate mie notizie. Ma almeno ditemi chi siete. Io sono il numero 27. Dunque non vi fidate di me? Domandò Dantes. Vi giuro su Cristo che piuttosto mi farò uccidere che far scoprire ai vostri carnefici e ai miei l'ombra della verità. In nome del cielo, non mi private della vostra presenza, non mi private della vostra voce. Oh, ve lo giuro, poiché sono allo stremo delle forze, mi romperò la testa contro il muro e voi dovrete rimproverarvi la mia morte. Quanti anni avete? La vostra voce mi sembra quella di un giovane. Non conosco la mia età, perché non ho calcolato il tempo da quando mi trovo qui. Quel che so è che il 28 febbraio 1815, quando fui arrestato, avevo circa 19 anni. «Non ancora 26 anni!» mormorò la voce. «A questa età non si può essere già un traditore!» «Oh, no, no! Ve lo giuro!» ripeté Dantes. «Ve l'ho già detto e ve lo ripeto! Mi farei tagliare a pezzi piuttosto che tradirvi!» «Avete fatto bene a parlarmi, avete fatto bene a pregarmi, perché avrei ideato un altro piano e mi sarei allontanato da voi. Ma la vostra età mi tranquillizza. Vi raggiungerò. Aspettatemi! E quando? Bisogna che calcoli i rischi. Lasciatemi. Vi farò un segnale. Ma non mi abbandonerete. Non mi lascerete da solo. Verrete da me. O mi permetterete di venire da voi? Noi fuggiremo insieme. E se non potremo fuggire, almeno parleremo. Voi delle persone che amate. E io di quelle che amo. Amate qualcuno? Sono solo al mondo. Allora amerete me. Se siete giovane, sarò vostro compagno. Se siete vecchio, sarò vostro figlio. Va bene, disse il prigioniero. A domani. L'indomani, dopo la visita del mattino, appena Edmond ebbe scostato il letto dal muro, sentì battere tre colpi distinti a intervalli uguali. Si precipitò in ginocchio. «Siete voi?» chiese. «Eccomi! Il carceriere se n'è andato?» domandò la voce. «Sì!» rispose Dantes. «Non ritornerà che questa sera! Abbiamo 12 ore di libertà! Allora posso agire!» disse la voce. «Sì, sì, sì, senza indugio, all'istante, ve ne supplico!» La porzione di terra, sulla quale Dantes, per metà entrato nell'apertura, appoggiava le mani, sembrò cedere. Si gettò all'indietro, mentre un ammasso di terra e di calcinacci precipitò in una buca che si era aperta sotto lo scavo da lui fatto. Allora, dal fondo di questa buca oscura, e di cui non si poteva misurare la profondità, vide apparire una testa, poi due spalle e finalmente un uomo tutto intero che uscì con molta agilità dallo scavo. Dantes accolse fra le braccia il nuovo amico, atteso da così tanto tempo e con tanta impazienza, e lo attirò verso la finestra finché quel poco di luce che penetrava nella cella potesse illuminarlo. Era un personaggio di bassa statura, con i capelli incanutiti più dalla prigionia che dall'età, occhi penetranti nascosti sotto folti sopraccigli grigi e una barba ancora nera che gli scendeva fino al petto. La magrezza del viso solcato da rughe profonde, lineamenti decisi rivelavano un uomo abituato a esercitare le sue facoltà morali, più che le forze fisiche. La fronte del nuovo venuto era coperta di sudore. Quanto alle vesti, era impossibile distinguerne la forma primitiva poiché cadevano a brandelli. Sembrava avere almeno 65 anni, benché un certo vigore nei movimenti lo rivelasse meno vecchio di quello che pareva a causa della lunga prigionia. Egli accolse con piacere l'entusiasmo del giovane. La sua anima di ghiaccio sembrò per un istante riscaldarsi e sciogliersi al contatto di quell'anima ardente. Lo ringraziò della sua cordialità con un certo calore, benché la delusione fosse stata grande. Trovare un'altra cella dove credeva di ritrovare la libertà. «Prima di tutto», disse, «vediamo se c'è la possibilità di far sparire alla vista dei carcerieri le tracce del mio passaggio. Tutta la nostra tranquillità futura dipende dalla loro ignoranza di ciò che abbiamo fatto. Allora si chinò verso l'apertura, prese la pietra, che sollevò facilmente nonostante il suo peso, e la rimise nel buco. «Questa pietra è stata smossa con molta negligenza», disse scuotendo la testa. «Non possedete utensili? E voi?» domandò Dantes con sorpresa. «Ne avete voi?» «Me ne sono fabbricato qualcuno. Eccetto una lima, ho tutto ciò che mi serve. Scalpello, tenaglia e leva». «Ah, sarei curioso di vedere questi prodotti della vostra pazienza e della vostra abilità», disse Dantes. «Prendete. Ecco lo scalpello». Egli mostrò una lama forte e tagliente, infissa su un pezzo di legno di faggio arrotondato. «E con cosa l'avete fatto?» disse Dantes. «Con una traversa del mio letto. È con questo strumento che mi sono scavato tutto il percorso che mi ha portato fin qui. Circa 50 piedi. 50 piedi!» esclamò Dantes con una specie di terrore. «Sì, questa è pressappoco la distanza che separa la mia cella dalla vostra. Ho solo calcolato male la curva per la mancanza di strumenti di geometria per fare una scala di proporzioni. Invece di 40 piedi di ellissi, ne ho incontrati 50. Credevo, come vi ho già detto, di arrivare al muro esterno per forare questo muro e gettarmi in mare. Ho seguito il corridoio che porta alla vostra cella invece di passarvi sotto. Tutto il mio lavoro è buttato, poiché questo corridoio dà su un cortile pieno di guardie». «E allora?» chiese Dantes. «Capite bene che è impossibile fuggire dalla vostra cella». «Allora?» ripeté il giovanotto con tono interrogatore. «Allora», disse il vecchio prigioniero, «sia fatta la volontà di Dio». E un'espressione di profonda rassegnazione si diffuse sul viso del vecchio. Dantes guardò quell'uomo che rinunciava in tal modo e con tanta filosofia a una speranza nutrita per lungo tempo, con una sorpresa mista ad ammirazione. Andrea Giordana ha letto Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas. Regia Anna Antonelli. Riduzione Chiara Nicoletti. Coordinamento Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it